Sì, ma abbiamo visto poi, insomma, per completare il quadro, anche l'atteggiamento di Lupi di ieri con le comunicazioni che mandava direttamente da Twitter sul piano casa e sulla criminalizzazione dei movimenti, insomma, per completare un po' il quadro. Beh, io penso, insomma, che sì, è vero che un po' il clima l'avevamo già sentito, avvertito nelle settimane precedenti. D'altra parte, appunto, Renzi si è insediato per fare delle cose concrete, è un governo un po' diverso da quelli sempre tecnici che lo hanno preceduto, il governo, insomma, guidato dal capo del PD, dal neo presidente, insomma, eletto del PD, per cui dal segretario, scusate, del PD, per cui evidentemente il PD insieme a Napolitano vuole dare dei segnali concreti a questo paese, e dei segnali concreti evidentemente sono arrivati con i provvedimenti che il governo ha varato nei primi giorni in cui si è insediato, e sono quei provvedimenti che sono stati al centro della manifestazione del 12, della costruzione del 12 e della contestazione dell'assedio di sabato scorso. Piano casa e Jobs Act, insomma, penso che ne avrete abbondantemente parlato, due temi che chiaramente sono due temi che parlano della precarietà di vita di milioni di persone. Quindi penso, insomma, anche rispetto alle polemiche, che siano due temi centrali appunto nella costruzione delle battaglie dei prossimi mesi. Chiaramente sul tema del diritto all'abitare, che appunto è stato un po' come dire, quasi c'è l'accusa quasi che la manifestazione fosse incentrata troppo sul tema della casa. D'altra parte la manifestazione così del 12, così come quella del 18, insomma, del 19 e ottobre, è stata costruita a partire da realtà territoriali, da realtà metropolitane, insomma, da realtà politico-sociali che su questi temi non aspettano, insomma, una manifestazione o due manifestazioni l'anno per poter insomma esprimere i propri contenuti e le proprie pratiche, ma sono movimenti che tutti i giorni appunto costruiscono senso e costruiscono opposizioni, appunto, a partire dalla difesa del diritto all'abitare, che è un diritto che come dire, racchiude un po' in sé per appunto le complessità che rappresenta, anche un'opposizione alle politiche d'austerity, anche un'opposizione alle politiche che l'Europa sta come dire, attuando, appunto costringendo gli stati nazionali più o meno complici, insomma, ad assumere con forza le politiche di austerity. Evidentemente, insomma, il governo italiano è uno di quei governi che sicuramente come dire, lo fa con più tranquillità e con più convinzione, magari subisce, è uno di quelli che subisce anche meno le decisioni, perché ne è abbastanza come dire, parte e complice. Dopodiché per quanto riguarda appunto il tema della casa, io penso che rispetto alla declinazione, alla capacità che hanno avuto i movimenti di articolare ragionamenti e pratiche, è un tema che parla in generale di un modello neoliberista, che è un modello che va contrastato. Quando appunto si occupano le palazzine delle banche, appunto acquistate dalle banche e lasciate vuote, piuttosto che i palazzi di Caltagirone, piuttosto che il patrimonio pubblico, e quindi si decide di provare a impedire la vendita del patrimonio pubblico, si fa un ragionamento appunto complessivo su un modello che è appunto un modello neoliberista, che è fatto di privatizzazioni e appunto di negazione di diritti, e penso che da questo punto di vista i movimenti per il diritto all'abitare come dire, in qualche maniera rappresentino davvero presidi sui territori di resistenza a queste politiche, e appunto ovviamente avendo ben presente la complessità che c'è intorno alle questioni, però appunto ritengo che a partire appunto dalla questione dell'abitare non ci si sia chiusi appunto dentro un piccolo orticello a difendere appunto come dire, una piccole questioni, ma appunto che da lì in poi, appunto a partire dalla difesa del diritto alla vita, si sia avuta la capacità di articolare un ragionamento che d'altra parte appunto ha parlato di difesa dei territori, ha parlato di difesa dei territori dalle speculazioni, dalle devastazioni ambientali, e ha parlato anche della necessità di assediare le risorse e di dire appunto che le risorse, invece di essere destinate all'Expo o al TAV, questioni che troviamo nel famoso piano casa presentato dal ministro Lupi, ma che invece appunto possono essere destinate in maniera differente ai bisogni di chi sta pagando pesantemente questa crisi. Per cui appunto da questo punto di vista il segnale nei confronti dei movimenti che hanno avuto la capacità di articolare questo ragionamento e ripeto di avere una visione complessiva di quanto accade sul piano delle politiche economiche è dimostrato dal fatto appunto che il decreto Lupi, che è un decreto che chiaramente di tutto parla tranne che di possibilità di risolvere la precarietà abitativa, contiene in sé questo articolo 5, che è un articolo fortemente punitivo nei confronti di chi si è auto-organizzato e ha appunto deciso di affrontare la precarietà e di risolverla almeno parzialmente a partire appunto dalla capacità di riprendersi quello che gli viene negato, per cui appunto l'articolo 5 fortemente punitivo nega le residenze, nega la possibilità di allacciare le utenze, lo fa addirittura in maniera retroattiva. Un articolo 5 che in tutta la giornata di ieri il ministro Lupi ha continuato appunto dal suo Twitter a rivendicarsi, così come ha rivendicato gli interventi predisposti in quel piano appunto in funzione della risoluzione del problema dell'emergenza. Chiaramente ovviamente le questioni che pone Lupi sono tutte questioni assolutamente false, perché appunto tira fuori una serie di slogan con un atteggiamento tutto suo ideologico, che ha dimostrato insomma da quando sta seduto al Ministero delle Infrastrutture. Ricordiamo insomma che ci sta seduto da prima che Renzi si insediasse, c'era già appunto il 19 ottobre il ministro Lupi era già al centro le sue manovre erano già al centro delle contestazioni dei movimenti. Ebbene appunto il ministro Lupi, il divieto, si rivendica con un atteggiamento tutto ideologico, la fine di un'era, la fine dell'era della attiva. Irene? Definitiva. Sì? Sì, saltava la tua voce. Vai, la fine definitiva della possibilità che in questo paese ci siano politiche abitative pubbliche, perché tutta la manovra è orientata a favore delle banche, quindi a favore della possibilità che ci siano nuovi soggetti, quelli solvibili, in grado di indebitarsi per i prossimi 30 anni, stando in un mercato del lavoro che è quello insomma che viene ridefinito il Jobs Act. Ci sono appunto è una manovra che va in assolutamente a favore delle cooperative, d'altra parte insomma Poletti appunto siede a pieno titolo nel governo Renzi e rappresenta pesantemente degli interessi di una lobby che è quella appunto del sistema delle cooperative in Italia, e appunto a questo sistema delle cooperative ha avuto sicuramente un'altra parte importante appunto di riconoscimento attraverso questo piano casa, appunto che oltre di ripeto a concedere i soldi alle banche per i mutui, concede soldi alle cooperative per costruire questo social housing, che è appunto una formula ingannevole perché sostanzialmente appunto si tratta ancora una volta di interventi privati, leggermente magari calmierati, ma che comunque si rivolgono assolutamente a chi ha la capacità di essere solvibile e indubbiamente tagliando fuori tutti quelli che come noi insomma lavorano, se va bene, con contratti di 3 mesi. Infatti cioè, rispetto a quello che è stato costruito in questi mesi, più volte abbiamo detto che è stato un movimento che ha cercato di curare, insomma, quello che stava costruendo, un percorso che arriva da un'assemblea dell'anno scorso in valle, dove appunto si cercava di unire le lotte concrete e non quelle enunciate che ci stanno sul territorio nazionale, e che ha anche diciamo indicato non solo appunto la data del 12 aprile, a parte che ci sono state mobilitazioni sui territori quotidiane, e mi piace ricordare che la vittoria che abbiamo avuto il 19 non è stata tanto quella di portare grossi numeri in piazza, ma piuttosto espandere le lotte che erano più forti in alcune città anche nel resto del territorio nazionale. La rete Abitare nelle Crisi ne è una testimonianza di quante appunto città partecipano a questi incontri, a queste assemblee nazionali che si fanno con scadenze molto ravvicinate tra di loro, perché c'è l'esigenza pure appunto di parlare dell'abitare nella crisi, del problema della casa, e anche di attuarla nei propri territori, ma ha anche indicato delle date come quella del 1° maggio e dell'11 a Torino, dove ci sarà il vertice sulla disoccupazione giovanile. Ha indicato delle date che vanno anche al di là della casa, e che comunque racchiudono tutti quei problemi che stavi e quindi cercano di dare anche una risposta a tutti quei problemi che stavi elencando tu, cercando di declinare il più possibile quelle che sono state, diciamo, le parole d'ordine anche della manifestazione del 12. Quindi ci saranno altri appuntamenti che continueranno a dare voce sia al piano casa che insomma al tentativo di confermare e di espandere in questo paese ulteriore precarietà. Ma sì, ma intanto appunto, cioè, io ribadisco che comunque la casa è un pezzo di reddito, per cui evidentemente chi si mette in gioco e chi decide appunto di auto-organizzarsi per strappare appunto per appunto riprendersi uno spazio dal quale riorganizzare la propria vita, non lo fa esclusivamente per mettersi un tetto sulla testa, ma lo fa appunto per ricominciare a vivere, per appunto avere la possibilità di cominciare ad autodeterminare un po' di più i tempi e gli spazi della propria vita, quindi in maniera assolutamente naturale troviamo le connessioni appunto che ci legano al resto del percorso. Dicevamo prima, per noi il piano casa e il job set sono due aspetti della stessa medaglia: chi occupa casa e chi evidentemente non ha la possibilità di accedere a un mercato del lavoro se non sotto forma di sfruttamento appunto che è stato in maniera definitiva sancito appunto dal provvedimento chiamato Jobs Act. Dopodiché in maniera molto, come dire, naturale per chi sta dentro percorsi collettivi di difesa dei propri diritti, immaginare che appunto la mobilitazione continui e vada avanti. Si parlava prima dei numeri, non è un problema di numeri, indubbiamente certo il 19 ha avuto la capacità di portare persone in piazza e da quella manifestazione si è tornati più forte di territori, però quei territori insomma sono ritornati in piazza il 12. Il 12 c'erano tantissimi pullman provenienti da piccole città del centro, del nord, ma da piccole realtà che chiaramente appunto dal 19 hanno tratto forza, ne hanno fatto appunto l'hanno saputa riportare sui territori, su quei territori che però sono tornati ancora più determinati in piazza il 12, e che appunto nonostante l'atteggiamento di questo governo, che è un atteggiamento che voglio dire in maniera basti guardare la carica che è avvenuta dentro piazza Barberini per capire in maniera insomma definitiva qual è l'atteggiamento di questo governo: non c'è spazio per la contestazione, non c'è spazio per chi